cominciare a fare, ho cominciato a giubile, sarà che non mi amassi. Ho cominciato a noce, ho cominciato a faggia, ho cominciato a giubile, sarà che non mi amassi. Non busques más disculpas, lo siento en tus caricias, allá no eres la misma. Ya no sé qué va, ya no sé, ya no sé.